Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Il Palombaro è sotto l'acqua del mare. Si muove lentamente per via della zavorra. Pochi minuti prima in tre uomini l'hanno aiutato a indossare la tuta. È una tuta spessa 4 mm, tutta impermeabile per sopportare il freddo dell'acqua. Poi uno degli uomini, con sforzo, solleva il grosso elmo tondo di 10 kg e lo aiuta a indossarlo, avvitandolo saldamente alla tuta. I pesanti scarponcini di piombo sono già ai suoi piedi. Quando tutto è finito, il Palombaro si avvia pesantemente verso la scaletta che lo separa dall'acqua e si lascia scivolare nell'acqua salata. In pochi istanti raggiunge il fondo, cammina fra i pesci che lo guardano in silenzio. Dai tre piccoli oblò del suo elmo osserva il mondo marino. Dalla banchina un bambino osserva quel tubo che si infila nell'acqua. Sa che è l'unico legame che il Palombaro ha con il mondo lassù. È l'aria, è la vita. Mentre la cima che corre insieme al tubo è la voce del Palombaro. Uno strattone vuol dire: tutto procede bene. Due strattoni: un po' più aria. Tre strattoni: un po' meno aria. Quattro strattoni: tiratemi su. Il bambino spera di non vedere mai uno strattone in più di quei quattro. Perché se la cima inizia a tirare forsennatamente, vuol dire una sola cosa, vuol dire allarme, invocazione di soccorso, forse la morte. E alla morte, lì su quella banchina allagata del sole ligure, il bambino non vuole pensare. Perché il Palombaro che fa a gara con i polpi e le razze per accedere ai relitti delle navi sott'acqua, armato di martello e cacciavite, pronto al sacrificio per riparare falle, altri non è che suo padre, l'Antonio, che lì a San Pier d'Arena tutti conoscono da una vita. In quella fine d'Ottocento, quando le sfide sottomarine sembrano tutte solo possibili nei libri di Jules Verne, l'Antonio è uno dei primi pionieri nell'arte estrema del palombaro, un'arte che solo i più coraggiosi possono tentare. Quindi, quando l'Antonio esce dall'acqua, la prima cosa che vede affacciarsi è il volto al tempo stesso preoccupato ed eccitato del suo figliolo, un bimbetto ancora imberbe, ma già gentile, con gli occhi pieni di poesia. Al grosso palombaro fan tenerezza, quegli occhi un po' spaventati. Per questo, appena gli svitano dal collo il grosso elmo, le sue parole sono per lui. Ettore, sta tranquillo. Hai visto il babbo, che bravo. Ora esco e torniamo a casa, che la falla della nave è riparata. Ettore sorride al babbo palombaro e timido gli tocca la cima legata intorno alla vita. Il bambino che attende sul molo si chiama Ettore Serra. È un nome che a molti non dirà granché, eppure avrà larga parte nella storia della poesia italiana dei primi del Novecento. Non come poeta, anche se pubblica belle poesie riconosciute da più parti, ma come colui che prese un vecchio tascapane di tela rovinata, ne fece tesoro e lo trasformò in un dono enorme per tutti noi. Ma andiamo con ordine. Di Ettore Serra, nato alla Spezia nel 1890, non si sa molto se non quel poco che egli stesso racconta di sé. In me degli avi liguri si fondono difetti e pregi, questa litorale vena di canto e questo abbandonarsi alla vita obliandola. Un'esperienza quale nel sole smemora le bionde vigne propense dai colli sul mare. Diligente a scuola, dopo il liceo passa a giurisprudenza. Il babbo Antonio ne è fiero, anche se un po' gli dispiace di non vedere il figlio immergersi con lui. Ma Ettore è un ragazzo con la testa a posto, vuol bruciare i tempi, avere un lavoro sicuro. Anche perché a 20 anni ha già una moglie ed è in arrivo il primo figlio. Insomma, c'è una famiglia che ha bisogno di lui. Ma l'amore per la letteratura, in particolare per la scrittura, non lo abbandona. Già nel 1905, a soli 15 anni, l'editore Belforte di Livorno dà alle stampe il suo primo libretto. Segue Al vento d'autunno nel 1908, Sogno simbolico nel 10 e nel 1911, fra i pianti del figlio e gli esami di legge, trova il tempo di pubblicare la sua prima raccolta più strutturata, intitolata Vita di un giovane artista. Il libro piace al poeta Giovanni Papini, ma il giudizio non cambia la vita al giovane Serra. I seguenti 4 anni lo vedono padre ancora 2 volte, e quando nel 1915 la Prima Guerra Mondiale lo viene a stanare all'uscio di casa, allorché l'Italia entra nel conflitto, il 25enne Ettore non può far altro che abbandonare la moglie e i 3 figlioletti per andare al fronte, invece che pensare alla poesia. Nello stretto scompartimento del treno diretto verso il Friuli, accanto ad Ettore, c'è ancora il babbo Palombaro. Ma i ruoli sono cambiati. A mostrare preoccupazione questa volta è Antonio, mentre il figlio lo rassicura. Sta tranquillo, vedrai che torno tutto intero e sulle montagne ti penserò laggiù al mare. Arrivati a Porto Gruaro, padre e figlio si separano ed Ettore prosegue solo fino alla sede della 22esima divisione a cui è stato assegnato. Grazie alla sua laurea è stato fatto tenente, o come tutti lo chiamano, vista la giovane età e l'aspetto ancora più acerbo, il tenentino. Il tenentino Ettore Serra trascorre i suoi primi mesi di guerra in trincea. È un'esperienza terribile. Quella di trincea è una guerra di logoramento in cui vince chi resiste. E resistere si deve, soprattutto alla paura, alla noia, al freddo, alla fame. Ed è così che per Ettore passa un anno e ha diritto a qualche giorno di riposo da trascorrere a pochi chilometri da Gradisca di Sonzo, nel paesino di Versa, dove incontra un soldato. Un soldato semplice, senza medaglie, un soldato strano, dal volto pallido, affilato. Vi prendevano anche maggior rilievo le labbra allungate e carnose, un fante altero e umile insieme, protervo quasi direi, e timido come un bambino. Il tenente Ettore Serra rimane colpito da questo soldato, lo chiama e gli rivolge le solite domande. Parlava calmo, pienamente, scandendo le sillabe, con voce dolce, tenendo il capo che pareva stanco, reclinato, e gli occhi in ombra. Dagli occhi socchiusi filtrava, come da fragile feritoie, una fredda fiamma azzurrina. Alla richiesta di presentarsi, il soldato risponde: soldato semplice Giuseppe Ungaretti. Il tenente Ettore Serra, figlio del palombaro Antonio, ha appena incontrato il soldato semplice Giuseppe Ungaretti, dagli occhi azzurri come il mare. In essi, Ettore legge una promessa di poesia che intende cogliere, così come il padre legge nel mare una promessa di tesori nascosti che intende portare alla luce. E così, in quei giorni di riposo a Versa, alla sinistra del fiume Isonzo, durante la mite primavera del 1916, mentre a pochi chilometri la trincea li attende per stritolarli di nuovo nella sua morsa, i 2 uomini stringono una comunanza inaspettata, fondata sulla reciproca curiosità, sulla reciproca riconoscenza. Mattinate di sole, di amicizia, di poesia. In giro per i campi i 2 uomini scoprono le bellezze di una regione in fiore e il piacere di scambiare pensieri e pareri sulla vita, sul mondo, sulle idee. Ed è proprio in questi giorni che Ungaretti scrive la poesia A riposo, evidentemente dedicata a queste giornate trascorse con Serra. Chi mi accompagnerà per i campi? Il sole si semina in diamanti, di gocciole d'acqua sull'erba flessuosa. Resto docile all'inclinazione dell'universo sereno. Si dilatano le montagne, insorsi d'ombra lilla, e vogano col cielo. Su, alla volta lieve, l'incanto si è troncato, e piombo in me, e m'oscuro in un mio nido. Poesia alta, di valore, profonda. Ettore Serra, poeta anch'esso, riconosce immediatamente che di fronte a un uomo dalle capacità eccezionali. L'ottusità della guerra sembra improvvisamente sconfitta dalla comparsa di un uomo che ha avuto in dono il suo stesso bagaglio emotivo e con cui condividere il proprio sentire profondo. Ecco la vaga speranza fatta realtà. Ecco l'atteso avvenimento favorevole che avrebbe cambiato il corso della mia vita. Infatti, solo il suo canto parsimonioso era riuscito a rompere il mio tedio e la mia solitudine, a scuotermi, a ridarmi forza e, insomma, a farmi rinascere. On my fault. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. Da quelle passeggiate nasce un'amicizia destinata a resistere per sempre, oltre ad altre 2 o 3 poesie scritte da Ungaretti. Ma poi, inevitabile, arriva la separazione. Il riposo è finito e con esso la bellezza della creazione poetica per Ungaretti e la gioia di potervi assistere di Ettore Serra. La guerra li separa, ognuno è di ritorno alla propria madre trincea, ai suoi orrori, alle sue sofferenze, ognuno a riflettere sulla propria esistenza. L'uomo nella guerra manifestava i suoi peggiori istinti, anche se quella guerra, quando c'eravamo entrati, anche quando l'avevamo voluta, ci sembrava che fosse l'ultima guerra, che fosse la guerra per liberare l'uomo dalla guerra. La guerra non libera mai l'uomo dalla guerra. Ma la guerra non libera mai dalla guerra, dal dolore, dai morti. Solo una cosa può liberare dallo strazio che ogni giorno si accumula nel cuore, la poesia. E Giuseppe Ungaretti la sente fortemente come l'unica possibilità di sopravvivere alla paura della morte o a quella dei suoi compagni, altri soldati che come lui vivono in trincea, che a differenza di lui vengono colpiti e uccisi. Un'intera nottata, buttato vicino a un compagno massacrato, con la sua bocca digrignata, volta al plenilunio con la congestione delle sue mani, penetrata nel mio silenzio, ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita. La vita sembra l'unica cosa a cui aggrapparsi nel delirio guerresco. In questo primo anno di conflitto, Ungaretti si è già trovato in quasi tutte le battaglie peggiori di questa strana guerra in cui nessuno degli scontri che gli italiani devono sostenere sembra avere un senso. La linea che separa i due eserciti sembra non spostarsi mai. Per non perdere il senno, l'unica risorsa è un indomito vitalismo, soprattutto nei casi peggiori, come l'alba del 29 giugno 1916. Sono le 5:30 della mattina. L'estate è arrivata da poco anche a Monte San Michele, un nome pomposo per una collina di poco più di 200 metri che domina la bassa valle dell'Isonzo. A quell'ora il grosso dei soldati è ancora nel mezzo del sonno. A un tratto, 6.000 bombole dal nemico portate il più vicino possibile alle trincee italiane esalano un misto di gas asfissianti, cloro e fosgene. La prima linea ne viene investita in pieno. I soldati si svegliano per pochi attimi, giusto il tempo per portarsi le mani alla gola, per cercare invano di trovare aria, respirare ancora una volta prima di rimanere soffocati dalla loro stessa saliva. Le seconde file fanno fatica a capire cosa stia succedendo e per istinto fuggono cercando di mettersi in salvo dai gas malefici. Questo è il primo attacco chimico che gli italiani devono sopportare. La prima volta che l'aria pura del Carso deve cedere spazio al benefico puzzo dei gas. E subito dopo il gas arrivano i reparti ungheresi dell'esercito austro-ungarico che si gettano sui soldati in agonia e li finiscono a colpi di mazzaferrata. Il tempo di riprendersi, di riorganizzarsi, e i soldati italiani che avevano ripiegato si lanciano a soccorrere i loro compagni. Lo spettacolo dello sfacelo creato dai nemici li sprona a combattere con rabbia e infine a vincere la battaglia, riprendendo la posizione. Nelle retrovie c'è anche il soldato semplice Giuseppe Ungaretti. Scampato ai gas, non scampa però alle visioni terribili della trincea assaltata, dei volti sfigurati dalla morte per asfissia, dei crani fracassati dai colpi nemici, dal sangue, dal fumo, dalle grida. Sono più di 6.000 gli italiani che in quella estiva mattina muoiono sul Carso. E tutti quei volti disfatti, quegli uomini vinti e vittoriosi al tempo stesso, Ungaretti li sente improvvisamente vicini a sé, fratelli nella lotta, nella sofferenza. Fratelli, di che reggimento siete? Fratelli, parola tremannati nella notte. Destini incrociati. Sono appena morti più di 6.000 uomini sul Carso e un giovane soldato sta disperatamente cercando di mantenere il senso della propria umanità mentre tenta di restare in vita. Si chiama Giuseppe Ungaretti e da un anno combatte nel Carso. In mezzo alla morte ha un solo periodo di serenità, quello trascorso in riposo a Versa, vicino l'Isonzo, dove ha incontrato il tenente Ettore Serra. Il collante della loro amicizia è la poesia, amore e scopo della vita di entrambi. Di Ettore Serra abbiamo già detto, ma di Ungaretti, del soldato semplice Giuseppe, che cosa sappiamo? Come è arrivato fin lì nel Carso a combattere, a uccidere e al tempo stesso a scrivere con matite di fortuna brevi versi su pagine improvvisate? Ungaretti nasce vicino alla sabbia e alle palme, ad Alessandria d'Egitto, dove i suoi genitori abitano al limitare del deserto. Nasce in una notte burrascosa e piena di vento, l'8 febbraio del 1888. Suo padre non è presente, è a Suez a lavorare alla costruzione del canale. La madre è sola, accudita da mani straniere, una balia sudanese, una domestica croata. Alessandria accoglie con indifferenza questo giovane figlio della Lucchesia, da cui provengono i genitori di Giuseppe, che in Egitto tentano la fortuna. Che non arriva in pompa magna, ma solo a piccoli sorsi e dopo anni di duro lavoro segnati da tanti dolori. La madre, rimasta vedova quando il bambino ha solo 2 anni, apre un piccolo forno dove prepara il pane tutti i giorni. Giuseppe è quindi solo e gira per le strade della città in compagnia di 2 amici, l'egiziano Mohamed Shehab e l'italiano Enrico Pea. Sono anni di scoperte, di giochi, della libertà del povero che non ha nient'altro se non il tempo e lo spazio intorno. Ti vidi, Alessandro. Friabile sulle tue basi spettrali diventarmi ricordo in un abbraccio sospeso di lumi. Per Ungaretti la sua terra è quest'Africa soleggiata, resa silenziosa dal caldo soffocante e dalla sabbia del deserto che ogni giorno minaccia le case, come quella dove vive con la madre, fra quelle che più si protendono verso il confine della città. Il bambino Giuseppe conosce solo questo continente, che è per lui casa e terra straniera al tempo stesso. Guardando il mare, dove le case si riverberano nell'acqua, nelle vicine oasi, dove cercare l'ombra delle palme e i rivoli d'acqua in cui bagnarsi. Tutto questo bagaglio di emozioni africane seguirà per sempre il giovane Ungaretti, anche quando in Africa non tornerà quasi più e nuovi paesi lo aspettano per crescerlo e trasformarlo in un uomo. A 8 anni Giuseppe è in collegio dai Salesiani, a 17 nell'ottima École Suisse Jacot, dove studia legge. Studia, e intanto si affina l'anima fino a traghettarla a Parigi. E il 1912 è la Belle Époque. But when one day your loved one drifts away, oh, la la la, it is so tragic. But when once more he whispers, je t'adore, c'est magnifique. Parigi ha tutto, il che è bellissimo per un ragazzo come Giuseppe che non ha niente. Ci sono non solo i balletti e le ballerine, ma anche gli artisti, gli scrittori, i poeti, il bel mondo. Giusto il tempo di arrivare e lasciarsi influenzare dalla città. E già Ungaretti dimentica il diritto e inizia a frequentare alla Sorbona i corsi del filosofo Henri Bergson, l'uomo che con i suoi concetti di tempo e memoria influenza profondamente Proust e soprattutto Joyce, generando quel filone del flusso di coscienza per il quale il tempo si polverizza in 1000 frammenti di pensieri, ricordi, emozioni che dilatano o contraggono la percezione del tempo reale. Un'ottima base per quella che diventerà la poetica ungarettiana. In questo periodo Giuseppe frequenta l'avanguardia, da Apollinaire a Braque, fino a Picasso, e gli italiani espatriati in Francia, Modigliani, De Chirico, Soffici e Papini. E in un caffè, la Close Read, là, dove ci si riuniva, credo, tutti i martedì intorno a Paul Fort, che era il principe dei poeti. Poi Parigi era carica di gente, di poeti veri o falsi, ma di ogni paese. Lì incontrai Soffici e Palazzeschi e Marinetti e Papini, che erano arrivati a Parigi in occasione della fondazione, credo, delle Soirées de Paris da parte di Apollinaire. Doveva essere verso il 12. Mi presentarono a Soffici, dico agli amici che ho già nominato, e mi chiesero questi amici di dare, dissero che ero poeta, mi chiesero di dar loro delle poesie. Ungaretti consegna qualcuna delle sue prime rime che nel 1915 vengono pubblicate sulla rivista letteraria L'Acerba, il giornale fondato da Papini con Soffici e Palazzeschi. Dopo 2 anni però, senza alcuna laurea in tasca, Giuseppe deve lasciare Parigi e arriva in Italia, finalmente nella terra dei suoi avi che non ha mai conosciuto. Prima di tutto io prendevo contatto con città italiane, con la civiltà italiana nella sua lunga storia. Non avevo mai trascorso un lungo periodo di vita in una città italiana. In Italia, Ungaretti conosce finalmente la Toscana, il paese da cui arrivano i suoi genitori. Vive a Torino, a Milano, frequenta i circoli interventisti, crede nella guerra che si prepara, pensa sia una soluzione, si arruola volontario. Il Carso è un altopiano di rocce calcaree a perdita d'occhio, con improvvisi baratri, crepacci, grotte che nascondono stalagmiti e stalattiti enormi. Il Carso oggi sembra innocuo, un territorio fitto di sentieri da percorrere in una soleggiata giornata di primavera o durante un mattino autunnale, mentre le foglie si colorano di rosso. Ma nel 1915 è un rosso diverso, quello che invece colora le terre carsiche, quello del sangue. Quando l'Italia dichiara guerra all'impero austro-ungarico, c'è la convinzione di riuscire a condurre il conflitto con rapidità ed efficienza e riuscire a riprendersi Trento e Trieste. Non sarà così. Anche Giuseppe Ungaretti aderisce alla guerra convinto della stessa cosa. Quando arriva nella valle dell'Isonzo, si sente accolto dal grande fiume, dalla valle che lo circonda. Ma è una sensazione di beatitudine che dura molto poco. I fiumi. Mi tengo a quest'albero mutilato, abbandonato in questa dolina che ha il languore di un circo prima o dopo lo spettacolo, e guardo il passaggio quieto delle nuvole sulla luna. In breve lo scenario si trasforma. La solitudine interiore che il poeta prova in mezzo alla morte è totale. Il Carso gli appare come un tempo il deserto, scarno, duro, pronto a distruggere i suoi stessi figli. Fra il fango e i pidocchi, Giuseppe scrive ogni volta che può per ritrovare il filo della sua umanità. Ho scritto il primo libro di poesie, Il Porto Sepolto, e poi una parte dell'Allegria l'ho scritta in trincea. E l'ho scritta su quei pezzetti di carta che mi capitava ad avere, sull'involucro delle pallottole, di cartone, su delle cartoline. E così, nel pericolo fra un tiro e l'altro, no? Nel proprio tascapane si accumulano foglietti, versi, riflessioni. Non ha tempo da perdere. Le raffiche di mitraglia austriaca non gliene lasciano. Per questo non si preoccupa delle rime, non segue endecasillabi o belle parole. Cerca armonia, solo quella, nel caos della guerra. Cerca di ritrovare le trame della sua esistenza in un linguaggio nuovo. Nel freddo del paesaggio montano ripensa al suo deserto, al suo mondo caldo e indifferentemente protettivo. E in questo universo amico ritrova i compagni morti in battaglia che celebra con pudore. Quando io mi sono trovato di fronte alla guerra, io mi sono trovato anche di fronte ad un linguaggio che dovevo per forza di cose rinnovare, no? Rinnovare, rendere essenziale, perché anche non avevo il tempo di usare un linguaggio complesso, avevo bisogno di un linguaggio che fosse essenziale, riducendosi al vocabolo, no? Essenziale proprio a un punto estremo, no? La poesia aiuta Giuseppe Ungaretti a sopravvivere, mentre Ungaretti aiuta la poesia italiana a trovare un linguaggio diverso, più autentico. E dai giorni del Carso appare evidente che tutto ciò che gli scrive non debba andare perso, ma preservato per fondare una nuova letteratura. Ed è a questo punto che rientra in scena Ettore Serra. Il tenentino vede in Ungaretti non solo il grande poeta, ma soprattutto vede in lui un'indole simile a quella del Babbo Antonio, il palombaro. Anche Giuseppe è un uomo che vuole portare alla luce i tesori seppelliti nelle profondità dell'anima. Ed è forse per questo che Ungaretti decide di affidare le sue cose al figlio del palombaro, abituato da sempre alla scoperta del mondo sotterraneo. In uno dei loro sempre più rari incontri sull'altopiano del Carso, Ungaretti chiede a Ettore Serra di custodire il suo tascapane riempito di frammenti poetici. Ettore, vicino al congedo, gli giura che riuscirà a pubblicarlo e che Giuseppe sarà presto in grado di vederne il risultato. May you never lay your head Destini incrociati. A Destini incrociati, Ettore Serra, un giovane tenente di La Spezia con un passato da poeta e un futuro da editore, ha appena ricevuto sulle rocce del Carso nel 1916 un tascapane di tela grezza e sporca dalle mani del suo amico, il soldato semplice Giuseppe Ungaretti. Dentro decine di pezzetti di carta con i versi che il giovane ha scritto nelle lunghe giornate e notti trascorse nel fragore della guerra. Per Ettore, che tiene in considerazione l'arte di Giuseppe come fosse quella di un grande poeta già affermato, è un onore. Una volta da solo, con eccitazione, affonda le mani nella vecchia borsa. Sotto la collina di Medea, di notte, cominciai la pesca miracolosa, proseguendola fino all'alba. E ora non posso nascondere l'orgoglio di essere stato il primo a decifrare e a leggere in quel groviglio grigiastro una così alta testimonianza di umanità. E mi sento commuovere ancora oggi se penso che un infortunio o un incidente magari comunissimo avrebbe potuto determinare la perdita di quel borsone di tela e insieme dell'opera più nuova e potente della nostra letteratura contemporanea. Queste parole di Ettore Serra sono riportate nel suo libro intitolato Il Tascapane di Ungaretti, dove racconta la sua avventura con il poeta di Alessandria d'Egitto. Con il prezioso contenuto della borsa, Ettore arriva a Udine, dove fa stampare a sue spese allo stabilimento tipografico friulano un elegante volume in Bodoni Corpo 10 intitolato Porto Sepolto. Perché, scrive Ungaretti, il Porto Sepolto è ciò che di segreto rimane in noi, indecifrabile. Del libro, il poeta chiede che ne vengano stampati solo 80 esemplari, richiesta che Serra è costretto ad accettare. Perché solo 80 esemplari? Non certo per mio capriccio, che anzi avevo pensato a 200 o 300 copie, ma irremovibile su quel numero, né uno di più né uno di meno, fu proprio Ungaretti, che era più tenace di un bimbo bizzoso quando si impuntava e per un non nulla roteava alla lama degli occhi azzurri e bofonchiava o anche urlava ripetendo le stesse parole non una ma 100 volte, 80, più che sufficienti. All'interno 33 poesie, in tutto 500 versi che esprimono lo strazio di un uomo solo di fronte alla brutalità della guerra. Ne venne fuori un libro nudo, severo, nel quale la poesia del porto campeggiava lapidariamente, proprio come era necessario. Quando il 16 dicembre Serra riesce a portare il volumetto all'amico Ungaretti, questo ne è commosso come un bambino. Mi abbracciò e, premio isperato, m'ebbi seduta stante il primo degli 80 esemplari con questa dedica. Al poeta Ettore Serra offro questo nostro libro, di cui il più grande merito per me è l'amore che egli ha dato con amore. In breve, il piccolo libro raggiunge tutti coloro che capiscono qualcosa di poesia e le reazioni sono tutte unanimi. Papini, Soffici, Prezzolini in Italia, Apollinaire e altri in Francia ne decretano l'immediato successo, come dice lo stesso Ettore Serra. Il libro esplose nelle riservette e nelle vecchie case matte d'annunziane sconvolgendole come una presina di buon tritolo potrebbe far saltare un deposito di munizioni avariate. Per Ungaretti è il successo. Un successo limitato al circolo degli intellettuali, ma un inizio senz'altro. Il mondo letterario italiano, schiacciato fra il superomismo estetico e decadente di D'Annunzio e la poesia malinconica e a volte fin troppo soggettiva di Pascoli, sembra trovare una nuova fonte a cui abbeverarsi con i versi di questo giovane che la guerra ha dilaniato nel profondo, rendendolo fragile eppure ancora più conscio della preziosità dell'esistenza. La sua poesia, resa scarna dal dolore e dall'enormità degli eventi, appare oscura ma profonda. Per lui, negli anni a venire, viene coniato un nuovo termine, ermetismo. Si apre una nuova via che negli anni sarà percorsa anche da Montale, Saba e in parte da Quasimodo. Per Ungaretti è un mondo che si apre pieno di promesse, anche se il soldato semplice alla fine della guerra si è trasformato in un povero uomo senza denaro che per vivere si arrabatta. La mia vita è stata dura. E ho fatto il poeta nei ritagli di tempo e ho fatto sempre un secondo mestiere. Per un periodo torna in Francia, dove incontra Jean Dupuis che sposa e da cui ha due figli, Ninon e Antonietto. Poi di nuovo in Italia, vicino Roma. Si arrangia, ma scrive ancora. L'ispirazione non viene meno, anche se non è così lineare come si potrebbe pensare. La sua stessa tecnica poetica, che lavora così tanto su ogni singola parola, rende difficile e volatile la ricerca. Ma non si sa, viene così, d'un tratto, un'idea, e poi questa idea vi tormenta, e poi scrivete qualche cosa, e poi vi ritorna ancora, e poi continuate, e a volte è un lavoro lungo, a volte è un lavoro che si fa in pochi momenti, no? Pubblica per Vallecchi, ma sempre con l'aiuto dell'amico Ettore Serra, Allegria dei naufragi. E poi nel 23 una nuova edizione, questa volta di 500 esemplari di Porto Sepolto. Questa volta la prefazione è scritta da Benito Mussolini, grazie all'intercessione di Ardengo Soffici, che di Mussolini è amico. Ma è inutile nascondersi dietro l'alibi di Soffici. La verità è che Ungaretti aderisce al fascismo. Un fatto ancora oggi inspiegabile se si pensa all'avversione del poeta verso la guerra, la violenza, la sopraffazione. Eppure non condanna mai il fascismo, neanche ai tempi dell'assassinio di Matteotti, neanche con la promulgazione delle leggi razziali, un'ombra ancora oggi oscura nella sua vita, un segreto che nessuna parola poetica ci potrà mai spiegare. Eppure è proprio questo segreto che esiste nell'anima di ognuno che Ungaretti vorrebbe svelare. La parola è impotente, la parola non riuscirà mai a dare il segreto che è in noi, mai lo avvicina. Mentre la sua arte progredisce, la vita di Ungaretti prosegue fra mille difficoltà. Alla fine accetta un posto come professore di letteratura italiana all'Università di San Paolo del Brasile e con la famiglia parte nel 1936 in cerca di speranza e tranquillità. Troverà l'esperienza della morte di nuovo ad aspettarlo. Il figlio Antonietto, di soli 9 anni, muore in seguito a un'appendicite malcurata. Per Ungaretti il dolore è immenso, un dolore paragonabile, anzi peggiore, di quello provato sul Monte San Michele. Sono una creatura, come questa pietra del San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata, così refrattaria, così totalmente disanimata. Al suo rientro in Italia, Ungaretti viene nominato Accademico d'Italia e gli viene offerta la cattedra di letteratura italiana all'Università di Roma. Ma la guerra di nuovo in furia, con il suo carico di orrore che il poeta rappresenta nella raccolta Il dolore. Una fra le poche gioie, la continua amicizia con quel tenentino, quell'Ettore Serra che per tutta la vita gli resta vicino e amico, senza mai chiedere nulla in cambio. Non a caso Ungaretti dedica le ultime parole del suo Porto Sepolto proprio a Ettore Serra, con il famoso commiato che sigla un legame nato sul Carso e destinato a rimanere fra i due uomini forte ed eterno, come il calcare di quell'altopiano. Gentile Ettore Serra, poesia è il mondo, l'umanità, la propria vita fioriti dalla parola. La limpida meraviglia di un delirante fermento. Quando trovo in questo mio silenzio una parola scavata, è nella mia vita come un abisso.